Kiss me una sola volta, kiss me per un'altra volta, kiss me e di volta in volta baciami una volta di più. Se c'è o non c'è la luna baciami, se il sole piange o ride baciami, in casa o per le strade baciami e ti bacerò. Kiss me una sola volta, kiss me per un'altra volta, kiss me e di volta in volta baciami una volta di più. Kiss me una sola volta, kiss me per un'altra volta, kiss me e di volta in volta baciami una volta di più. In casa oppure al cinema baciami, sui prati in fior cantando baciami, a cuore a cuor ballando baciami e ti bacerò. Kiss me honey, honey, kiss me, kiss me honey, honey, kiss me, kiss me e di volta in volta baciami una volta di più. Io vivo al mar sognando baciami, kiss me una sola volta, kiss me e di volta in volta baciami una volta. Al mar sognando baciami, in prati in fior cantando baciami, a cuore a cuor ballando baciami e ti bacerò. Kiss me una sola volta, kiss me per un'altra volta, kiss me e di volta in volta baciami una volta di più. Una sola volta.